Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Siete pronti a farvi contagiare dalla couponing mania? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Prosegue l'antologia estiva di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Sulla scia di una trasmissione TV lanciata poco tempo fa, torniamo a parlare di un fenomeno made in USA che svela le tecniche di risparmio più folli, ma che può insegnarci qualcosa in tema di convenienza. Spot e grandi registi, pubblicità o corti d'autore, manifesto celato dai pudori della settima arte. Il rapporto tra firme del cinema e pubblicità è da sempre molto stretto. Marta Cagnola ci guiderà in un viaggio attraverso gli spot d'autore. Le vacanze per molti stanno per finire, per altri devono ancora iniziare. Siamo ancora in tempo allora per tornare a parlare delle ultime tendenze in fatto di viaggi e vacanze. Le avevamo scoperte in occasione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Focus sui trend dedicato infine ai consumi infraordinari, quando la quotidianità fa tendenza. La borsa della spesa. Carrelli strapieni. Svuotiamo lo scaffale. Tutto ottenuto a prezzi incredibili. Anche questi, li ho presi tutti gratis. $530 di sconto, è il 98% della spesa. L'undicesimo comandamento è non pagare il prezzo pieno. Ho i buoni per queste. Dici che ci bastano le 40 scatole che abbiamo a casa? Sono pronte a tutto pur di risparmiare. Ho chiesto al direttore una lista in ordine alfabetico di tutti gli articoli venduti nel supermercato con il rispettivo scaffale. Controllo ogni volta le regole sui buoni, perché potrebbero aver cambiato qualcosa. Era Pazzi per la spesa, nuovo programma in onda su Real Time che racconta di un fenomeno molto diffuso in America, il couponing, la raccolta di coupon, cioè di buoni in sconto per risparmiare sulla spesa. Un fenomeno che quando arriva ai limiti del maniacale si chiama extreme couponing. Come raccontano le storie delle protagoniste, la raccolta di buoni in sconto, tagliandi offerte speciali, può diventare una vera e propria mania. C'è chi arriva addirittura di ispezionare la spazzatura pubblica in cerca di coupon gettati via. Storie anche frutto dei tempi che stiamo attraversando, ci dice Antonella Del Rico, a capo dei canali Discovery e Real Time. Ci sono per esempio casi appunto in cui queste signore si battono per ottenere il maggior numero di coupon che poi non riescono nemmeno a usare, oppure che devono utilizzare per spese che alla fine costerebbero di più di quanto hanno risparmiato. Sono in qualche modo dei fenomeni sociali, anche dei fenomeni psicologici in qualche maniera, che sono sempre interessanti da vedere, divertenti anche, ma che hanno comunque un angolo di riflessione. Ti dà uno spaccato di quello che viene generato dalla crisi economica ed è indubbio che nel 2000, dopo una fase di grande ricchezza degli anni 90, la società a livello internazionale è diventata meno ricca, per cui si vedono fenomeni di questo tipo che sono un po' la frangia estrema, però che danno un senso anche dello spirito del tempo che è un po' difficile. Quindi, visti i tempi, magari possono insegnarci qualcosa in fatto di convenienza e di risparmio. Sì. Sia cosa fare che cosa non fare, appunto. Perché è un fenomeno che non interessa i consumatori italiani? Lo abbiamo chiesto a Marco Ieva dell'Osservatorio Fedeltà dell'Università di Parma. In Italia diciamo che l'ecosistema della convenienza, così come noi lo abbiamo chiamato, è focalizzato sul volantino per i beni di largo consumo, perché culturalmente noi siamo molto legati al volantino, lo percepiamo come una rivista da sfogliare in un contesto quotidiano, e quindi il coupon per noi è interessante sotto altri punti di vista ed è legato più a servizi complessi e ad esperienze di consumo articolate che attivano di più il consumatore nella ricerca dello sconto e quindi lo coinvolgono anche e lo gratificano una volta che lo sconto è stato ottenuto. Mentre invece negli Stati Uniti il coupon è nato con Coca-Cola nei beni di largo consumo a fine 800 e quindi dopo è entrato nel DNA americano ed è paragonabile a una valenza emotiva, paragonabile a quella che noi abbiamo per le figurine Panini, quindi insomma è proprio una diversa tipologia culturale anche. Quindi non è solo un discorso di strategia commerciale delle insegne. È anche un discorso culturale, nel senso che le insegne, il mondo distributivo ci ha provato anche a utilizzare i coupon, sia attaccandoli sul volantino che anche distribuendoli in punto vendita, però si sono viste scarse percentuali di redemption e quindi alla fine si è preferito continuare a utilizzare il mezzo classico, il volantino, magari declinandolo appunto sui new media, sui siti del retailer e sugli infomediari, diciamo. Dai buoni sconto cartacei deriva la loro versione sul web, il digital couponing. I siti cosiddetti di social shopping come Groupon, Groupalia, Let's Bonus e simili, che stanno attraversando un vero e proprio boom anche in Italia. C'è chi dice che questi siti rappresentino una vera e propria induzione all'acquisto. Si comprano beni e servizi, ok, scontati, ma di cui non abbiamo bisogno, che non era nostra intenzione comprare. Diciamo che porta una sorta di frenesia compulsiva, perché il consumatore si vede nascere sul momento, sullo schermo, il desiderio di un nuovo servizio, di un nuovo acquisto, che lo porta a valutare un po' il costo opportunità e quindi si sente attratto da nuovi bisogni che lo conducono poi a concludere l'acquisto anche se non l'aveva pianificato. Quindi questo è un aspetto anche molto interessante per tutto il discorso dei social, perché poi anche la condivisione dello sconto porta ad amplificare come una cassa di risonanza tutti questi strumenti e li porta poi sui vari social network, e infatti sono diffusi Facebook Deals, sono diffusi anche i coupon su Twitter. Il segreto dei supermercati americani sono le offerte personalizzate per fasce o gruppi di consumatori, ci dice Marina Martorana, curatrice del blog Rispendo, risparmio spendendo, di Corriere.it, che sulla spesa ci regala anche una delle sue dritte. Nei nostri supermercati noi abbiamo tutti la Fidelity Card, nessuno ha pensato a fare un club, una sorta di membership per tutti quelli che vanno in questo supermercato regolarmente. Questo consente anche al supermercato di pianificare una serie di offerte solo per quelli che sono iscritti a questo club e quindi di incentivare, accattivare chiaramente lo shopping in questo modo, quindi con sconti e con iniziative promozionali, ma a ciclo letteralmente continuo. Via email i soci ricevono tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Esiste un portale in Italia che si chiama promoqui.it, è un grosso motore di ricerca, non è l'unico, ma è il più completo, diciamo. Comprende circa 16.000 tra negozi, centri supermercati, eccetera. Ecco, è comodissimo perché una può guardare il suo supermercato quali offerte ha nel periodo subito, immediato, no? Il giorno in cui guarda, perché sono aggiornati in tempo reale. Poi può benissimo vedere quali sono le offerte di altri supermercati e valutare di fare un po' più di strada, di raggiungerne un altro. Un seducente giovane uomo dai capelli bruni si aggira per una festa, anzi tra i saloni di un castello, poco prima che la festa abbia inizio. Intanto mesce l'aperitivo agli amici in attesa che arrivino tutti gli invitati. Anche noi spettatori siamo attesi. Il giovane uomo ci apre le porte del castello alla fine dello spot. È la storia dell'ultimo spot Campari, l'ultimo degli spot nel nostro paese firmati da grandi registi. Questa volta a farsi tentare da una pubblicità d'autore è stato Joel Schumacher. I have not done a lot of commercials. You know, a lot of Campari commercials. Non ho fatto molte pubblicità. Molti spot Campari mostravano gente quasi di un altro pianeta, così belli e così eleganti, ma sembravano staccati da noi. And we wanted very much to feel to bring you into the party. Invece noi volevamo davvero portare le persone dentro il party e non creare qualcosa di aspirazionale del quale nessuno avrebbe potuto davvero entrare a far parte, come una copertina di Vogue o qualcosa del genere, intendo dire. That is a great quotation from a German, you know, philosopher. So quella dell'attesa è una bellissima citazione del filosofo tedesco Lessing, ci siamo basati su questa sua idea. Io penso che dobbiamo vivere con la speranza questi tempi difficili, dobbiamo vivere con l'attesa di grandi cose, con grandi ispirazioni, tanto amore e tutte le cose belle della vita. All the great things in life, but I think we have to live with good expectations. Credo che dobbiamo vivere con buone aspettative, perché tutto quello che sentiamo nei media è tanta negatività, con i problemi dell'economia, dell'euro, con le cose simili che viviamo anche noi negli Stati Uniti. Dobbiamo star bene gli uni con gli altri. I think that we have to enjoy each other. Il rapporto tra registi e pubblicità è da sempre molto stretto, talvolta manifesto, talvolta celato da un velo di pudore. Dalla pubblicità fu tentato Federico Fellini, prima con finti spot all'interno dei suoi film. Poi con veri e propri spot commissionati da grandi aziende. Soup Colbert, gelée de bouillon, bouillon royal, crêpe valesca alla sauce suprême. Rigatoni. Ah. Per alcuni la pubblicità è stata un inizio, come per Luca Lucini o Alessandro Dalatri, che addirittura girò una serie di caroselli da attore ragazzino prima di fare il regista di spot. Sono molto affezionato a quella campagna, a parte per la popolarità che mi portò nel quartiere. Ero diventato una star. Ladri di motorette. Nel primo episodio a Lamberto rubano la Lambretta 50 Special. Riuscirà a ritrovarla? Al ladro! Altri continuano ad alternare film in pellicola e più brevi commercial, tra questi Paolo Virzì o Daniele Lucchetti. Giuseppe Tornatore addirittura ultimamente si è prestato al cortometraggio per S. Lunga. Io non è che faccio di mestiere quello che fai i film pubblicitari, però tra un film e un altro, siccome non ne faccio tanti, perché io di film ne faccio uno ogni 3 anni, tra un film e un altro, una o due volte, se ci sono dei progetti curiosi, che mi divertono perché magari mi offrono la possibilità anche di sperimentare certe soluzioni visive, e allora li faccio. Ed è stato molto divertente. Come devo dire, è quasi sempre la pubblicità, è sempre molto divertente. E anni prima in tanti passavano appunto da carosello, a partire dal leggendario Luciano Emmer, regista di fresche commedie, che di carosello girò addirittura la prima sigla, inventata in 4:48 la notte prima della messa in onda. Ma un altro regista, nato dal cinema industriale alla Edison, girò alcune serie di caroselli indimenticabili per Nescafé e Ermanno Olmi. Quando la notte va via. E proprio quel carosello appare in La criptonite nella borsa di Ivan Cotroneo. Un omaggio a Olmi. Il carosello è un omaggio a Olmi, è un omaggio anche, devo dire, alle mie sere da bambino, perché io me lo ricordavo quel carosello. Tutta un po' la ricostruzione del film, una ricostruzione che rifugge da elementi pop, no? Non c'è per esempio la sigla del carosello, che è l'elemento pop per eccellenza, non c'è l'idrolitina, però rispetto a quello che è uno dei trailer non tanto popolari, né? Un trailer d'autore, io mi ricordo quella musichetta che funestava le mie cene, quella musica funestava le mie cene familiari, rendendole un po' tristi, per cui ho voluto quel gioco lì anche con Luca Zingaretti, che a un certo punto alza gli occhi al cielo e spegne la televisione perché dice vabbè, non se ne può più. Sei uno che va sui trampoli. Sui trampoli? Sei un trampoliere, è così che si chiamano quelli che viaggiano a piedi. La N lì per cosa sta? Nord, la tua grande avventura in Alaska. Possano i viaggiatori trovare la felicità ovunque vadano e senza sforzo possano realizzare ciò che si sono prefissi. L'anno scorso ho passato 322 giorni in viaggio. Ho volato per 350.000 miglia. La Luna ne dista 250.000. Le cose che tutti odiano del viaggiare per me sono confortanti reminiscenze che sono a casa. Bentornato, signor Bingham! Quanti sono i film che raccontano storie di viaggio, storie che ispirano molte delle nostre partenze? Una delle tendenze del momento è il treno, che sta diventando uno dei mezzi più amati per i viaggiatori a caccia di nuove mete, magari attraverso la riscoperta delle vecchie linee dimenticate. La Transiberiana, l'Orient Express, il Palace on Wheels in India o il treno a Las Nubes in Sud America. Quali sono le novità del settore? Quali le mete, le tipologie di viaggio e gli stili di vacanza che appassionano i milioni di turisti nel mondo? Lo abbiamo chiesto a Marco Serioli, direttore Exhibitions di Fiera Milano SPA. Ci sono tante cose che stanno accadendo in questo settore. diciamo che vanno forse un po' tutte sotto una definizione, che insomma il turista è sempre meno turista e sempre più viaggiatore, quindi da una parte viaggi più brevi, viaggi più frequenti, più distribuiti durante l'anno, dall'altra parte la vacanza che diventa sempre più esperienziale. Per quanto riguarda le mete emergenti si cita l'acronimo SLIM, Sri Lanka, Indonesia, Messico, Malesia, Argentina. Ci conferma che sono i nuovi mercati emergenti del turismo globale? Sì, ci sono sicuramente delle mete che da questo punto di vista hanno un'attenzione particolare da parte del nostro pubblico, oltre alle le classiche, diciamo, che stanno un po' tornando, come il Messico, come Sri Lanka, ma anche l'est, il Vietnam, la Malesia. Sono paesi che si stanno proponendo con delle offerte e con delle attrattive particolari, cercando di andare insomma al di là del solito turismo, chiamiamolo così, legato al mare. Dalle piccole gioie della vita al marketing della gentilezza, è la quotidianità a fare tendenza. Nel focus sui trend di questa settimana parliamo di consumi infraordinari, subito dopo la pausa. Essere e avere. Dicono che è vero che ogni sognatore diventerà cinico invecchiando. Dicono che è vero che noi siamo fermi, il panorama che si sta muovendo. Dicono che è vero che per ogni slancio tornerà una mortificazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero, non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più. Di nuovo in studio con Essere e Avere con Ora di Giovanotti. Introduciamo il focus sui trend di questa settimana. Parliamo di consumi infraordinari. Accanto a me, come sempre, la nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Le ispirazioni di questa puntata sono molte. Con la definizione di infraordinario ci rifacciamo al libro omonimo di Georges Perec, vero e proprio trattato su quello che lo scrittore francese definisce il rumore di fondo che costituisce ogni istante della nostra quotidianità. Con la canzone che abbiamo appena sentito vogliamo richiamare invece Viva Tutto, il libro che Giovanotti ha scritto con il filosofo Franco Bolelli mentre preparava proprio il suo ultimo album. Il tutto all'insegna delle piccole cose, appunto, che accompagnano la nostra vita e a cui si rifanno insospettabilmente anche prodotti, servizi e pubblicità. Patrizia. Un sinonimo di infraordinario è infraquotidiano e oggi setacciamo il sociale e il mondo dei consumi cercandone la grana più fina, per così dire, quindi prodotti, servizi ma anche pubblicità che si infilano nelle piccole pieghe delle giornate per lo più ordinarie delle persone, colmandone qualche interstizio, afferrando per la coda il senso profondo della vita, come riesce a dire e a dare conto Francesco Piccolo nel bestseller dell'anno scorso Momenti di trascurabile felicità. Le piccole gioie che spuntano dentro l'ordinario, sorta di manifesto, potremmo dire, della straordinaria densità dell'infraordinario. È un libro che interroga l'usuale, gli oggetti, i luoghi, le persone che all'apparenza non hanno nient'altro da dirci al di là della loro immediata presenza, e invece anche questo libro, come Viva Tutto, è una sorta di tributo al qui e ora da estendere a tutti i minuti della vita che a quel punto diventa viva. Altro libro che associamo al tema dell'infraordinario: Maurizio Ferraris, Filosofia per Dame, un dizionario filosofico in stile quasi settecentesco, è una minuziosissima descrizione delle piccole ma di nuovo non trascurabili fatiche e gioie del vivere, questa volta al femminile. Compaiono voci come armadio disordine, ma anche suocera, condominio, scocciatori e poi vero amore, licenziamento, timidezza, eccetera. Voci che sono varietà del banale ordinario, della normale quotidianità. La realtà concreta, dunque, ha a che fare con l'infraordinario, come si dice, quella rutinaria, quella ruvida e un po' imbarazzante, legata anche all'imperfezione, che di solito viene rismaltata e patinata, soprattutto in comunicazione. In questo caso abbiamo un esempio di questo tipo di scomodo infraordinario che diventa il soggetto progetto è la pubblicità Polident. Liana Pederzani è il testimonial, una signora bolognese che dice in TV di portare la protesi. Racconta con grande disinvoltura lo specifico momento d'uso del prodotto nei dettagli, quindi la banalità di un gesto quotidiano, masticare, preceduto dal rituale togli, incolla, metti, viene sdoganato e messo a nudo e raccontato per quello che è. Quindi una persona comune come testimonial, un racconto molto autentico, protagonista la scomoda micro realtà delle protesi dentali che, risolto il problema del cibo infiltrato, si trasformano in piccole gioie. Infraordinario è una categoria etico-estetica dei paesaggi urbani e diventa quindi anche lo spazio pubblico pieno di piccoli spazi di felicità temporanee per ognuno di noi. Sono i luoghi, soprattutto urbani, quelli riutilizzati o riutilizzabili creativamente dagli abitanti delle città per dare nuovi significati al rapporto con essi, quindi dagli orti sui balconi ai giardini comunitari, ai picnic, all'urban gaming, ai videogiochi all'aperto, ma anche allo sport, l'arte e i negozi pop-up itineranti, quelli che incrociamo per caso dietro l'angolo. Insomma, strade, parchi, piazze, periferie diventano luoghi di produzione di interazioni in cui la vita accade nella sua grana fina, come abbiamo detto, come esperienza individuale dentro l'ordinario e non fuori. Una filosofia questa che fa da sfondo anche a molti film e relativi monologhi. Tra i più memorabili c'è sicuramente quello di Woody Allen in Manhattan, le 10 cose per cui vale la pena vivere. Perché vale la pena di vivere? È un'ottima domanda. Ci sono certe cose per cui vale la pena di vivere. Per esempio, io direi il vecchio Groucho Marx, per dirne una. Joe DiMaggio, il secondo movimento della Sinfonia Jupiter, Louis Armstrong, l'incisione di Potato Head Blues, sì, film svedesi naturalmente, l'educazione sentimentale di Flaubert, Marlon Brando, Frank Sinatra, quelle incredibili mele e pere dipinte da Cézanne, i granchi da Sam Wu, il viso di Tracy. Patrizia, dal punto di vista dei consumi, come stanno cavalcando questa tendenza i brand? Con quali strategie? Direi un po' all'insegna dell'immediatezza del carpe diem, ci sono molte iniziative di brand che non vogliono più tenere le distanze e decidono di immergersi nel nostro micro, opaco, spesso ordinario, per puntarci un faro e renderlo straordinario, con piccoli gesti che caricano emozionalmente i momenti comuni, quelli usuali, sia negli ambienti di consumo ma anche no. E questi brand ci parlano da vicino, con una prossimità insolita, nuova, sia online che offline. Un primo esempio: lo scorso dicembre la compagnia aerea spagnola Spanair ha offerto un regalino consolatorio, diciamo così, personalizzato, consegnato a ritiro bagagli, a chi era a bordo dell'ultimo volo serale della vigilia di Natale, che quindi evidentemente non sarebbe arrivato a casa in tempo per celebrare questa festa con la famiglia. Passando alla rete, Facebook è il luogo dove più volte al giorno gli oltre 500 milioni di utenti attivi riversano idee, umori, dettagli, esperienze, pensieri, immagini, insomma, raccontano il loro istante assoluto e unico delle loro vite continuamente. Certo, non fanno solo questo, sappiamo che i social network si usano anche per scopi business, di branding, eccetera, ma diciamo l'uso prevalente rimane questo riversare quello che passa per la testa di questi io ipertrofici, quali siamo tutti o diventiamo quando abbiamo le mani sulla tastiera. E questo metterci in bacheca facilita molto i brand, che intercettano il nostro infraordinario e ne fanno occasioni di approccio, come dicevo, intimo, ravvicinato. È il caso di Biotherm, marchio di cosmesi di L'Oréal, che su Twitter invitava tutti quelli che avevano un post in cui dicevano di essere stanchi o affaticati a provare campioni gratuiti di prodotti benessere offerti per tirarli un po' su, quindi dimostrando di prendersi cura di loro. L'account che compariva era Biotherm Beauty e i tweet erano amichevoli proposte supportive, diciamo, quali: ciao Kelly, abbiamo visto che oggi ti senti particolarmente stanca, per darti una mano ci piacerebbe mandarti dei campioni gratuiti di Skinergetic, che ne dici? Simile idea per Interflora, servizio internazionale di spedizione di fiori e piante, che ha fatto una campagna di social media marketing proprio spedendo a sorpresa mazzi di fiori a chi su Twitter confessava di sentirsi particolarmente giù. Entriamo nelle case. Oggetti minimi per minime microfelicità. Una di queste, secondo Marabu Vernici, è pasticciare i muri. Per questo ha creato la vernice pittura effetto lavagna e la vernice magnetica. Creano una superficie parete su cui si può scrivere e cancellare, e combinando le due vernici si possono attaccare foto, magneti da comporre e ricomporre. Pensata più per adulti che per piccoli. L'infraordinario è anche legato agli oggetti in disuso, quelli recuperati, quelli che risorgono a nuove vite e a funzioni inaspettate, e che quindi riattivano dei legami con le persone in differenti contesti, iniettando queste microdosi di energia nelle nostre vite. Quindi l'oblò della lavatrice che diventa un portafrutto, una vecchia sedia senza gambe diventa il sellino portabambino per la bici, e via dicendo. Gli esempi sono moltissimi. Quindi oggetti comuni, vecchi, obsoleti, che vanno strappati alle associazioni abituali e rivoltati come un ciocco di legno, per dirla con una nota e significativa citazione del teorico delle avanguardie russe Shklovsky. Quindi infraordinario è anche questo, un serbatoio di possibilità minime di ridisegnare i luoghi in cui viviamo, gli oggetti di cui scegliamo di circondarci, con un semplice, tra virgolette, sguardo obliquo, cioè uno sguardo che ci fa connettere i puntini in modo diverso e vedere forme nuove, quindi usi e possibilità diverse di interagire con questi oggetti, restando nella banale normalità, ricaricata però di senso. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Washington su consumi infraordinari e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Alessia. Buon pomeriggio. Perfettamente in linea con questo trend, la strategia di marketing utilizzata dalla catena di ristoranti bio Sweetgreen. Fin dalla nascita questa azienda ha investito nella creazione di un brand che rappresentasse in primis la soluzione a un problema, ossia mangiare in modo semplice, veloce e salutare, ma che allo stesso tempo incarnasse uno stile di vita incentrato sulla sweet life, sul sentirsi bene. Fedele a questa filosofia, nell'ultimo anno Sweetgreen ha concepito una campagna promozionale che consiste nell'elargire in modo casuale piccoli gesti di riguardo, volti a migliorare la microfisica della quotidianità delle persone, ovviamente sotto l'egida del marchio. Così può succedere di trovare il sellino della propria bicicletta ricoperto in una giornata di pioggia e quindi asciutto, insieme a un buono pasto da consumare al ristorante, oppure lo stesso buono pasto lasciato sotto il tergicristallo delle macchine multate per compensare il disagio. La scorsa primavera due dipendenti hanno distribuito gratuitamente 25 insalate alle persone che avevano deciso di godersi l'arrivo della bella stagione in Dupont Circle, con una piazza della città. E dopo aver scritto su Twitter che avrebbe tanto voluto il servizio a domicilio di Sweetgreen, tale Tiffany si è vista recapitare a casa il suo piatto preferito, naturalmente gratis. Strategia che si è rivelata vincente dal momento che il ristorante ha visto triplicare le presenze. Grazie Alessia, possiamo girare la dritta a qualche ristoratore italiano se ci sta ascoltando, visti i risultati. Patrizia, tutto quello che abbiamo raccontato oggi è in linea con le nuove abitudini di consumo e di vita che la crisi prima e il buonsenso poi ci stanno imponendo. Mi viene in mente ad esempio la puntata che qualche tempo fa abbiamo dedicato alla gentilezza, intesa come nuova strategia per la crescita. Ma andare oltre quella familiarità che ci rende miopi, mettere in primo piano l'abituale ma guardarlo con un adeguato stupore per fare in modo che ci riveli qualcosa di straordinario di nuovo, è un approccio alla vita, possiamo dire, non solo alle merci di cui ci circondiamo, con cui viviamo, e questo ben si combina con i nuovi valori e stili di vita dell'era della post-crescita. Uno dei driver del cambiamento è proprio il cambio di sguardo, il cambio di paradigma, e quando lo sguardo a cambiare, anche la realtà cambia. Stiamo scaldando i motori per l'avvio della nuova stagione di Essere e Avere. Vi terremo compagnia con l'antologia estiva fino al 9 settembre, poi il via alle nuove puntate. A domenica prossima alle 16, come sempre, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.